Lolly Willhouse o L'amoroso cacciatore di Sylvia Townsend Warner, edizione Adelphi. Parte prima. Quando suo padre morì, Laura Willhouse andò a vivere a Londra con il fratello maggiore e la sua famiglia. «Verrai a stare da noi, naturalmente», disse Caroline. «Ma manderò a monte tutti i vostri progetti. Sarà un tale disturbo. Sei sicura di volermi veramente?» «Ma santo cielo, certo che sono sicura!» Caroline parlava in tono affettuoso, ma i suoi pensieri vagavano altrove. Erano già tornati a Londra a comprare una trapunta per la camera degli ospiti, quella più piccola. Chissà se spostando un po' in là il treppiede con il lavabo ci sarebbe stato posto per una scrivania tra il camino e la porta. O forse era meglio uno scrittoio, per avere anche qualche cassetto in più. Sì, ecco. Lolly poteva portare il piccolo scrittoio di noce, quello con le false maniglie da un lato e il piano che saltava su schiacciando la molla vicino al calamaio. Era di sua madre e l'aveva sempre usato lei, quindi Sybil non avrebbe fatto obiezioni. Non poteva certo accampare i diritti su quello scrittoio. Era sposata con James solo da 2 anni e se sulla tappezzeria del soggiorno fosse rimasto il segno, non le sarebbe stato difficile trovare qualcosa con cui nasconderlo. Un tavolino con sopra delle felci e altre piante sarebbe andato a pennello. Lolly era una creatura amabile e le bambine l'adoravano. Si sarebbe ambientata presto. Certo, era un peccato doverle cedere quella stanza. Del resto non potevano darle la più grande, anche se quella piccola era la più comoda per gli ospiti di passaggio. Sembrava un'esagerazione lavare le lenzuola matrimoniali per una persona che si fermava solo un paio di notti. Ma tant'è. Harry aveva tutte le ragioni. Lolly doveva andare a stare da loro. Londra sarebbe stata una piacevole novità, avrebbe conosciuto della bella gente e poi a Londra le sarebbe stato più facile sposarsi. Lolly aveva 28 anni, doveva spicciarsi se voleva trovare marito prima dei 30. Povera Lolly. Il nero non le donava, le dava un colorito giallastro e sotto quel cappello scuro a fungo che le stava così male, i suoi occhi grigio spento erano più spenti e sofferti che mai. Gli abiti da lutto comprati in provincia non sono mai quelli giusti. Mentre Caroline era assorta in questi pensieri, Laura non pensava affatto. Aveva raccolto un geranio rosso e si stava macchiando il polso sinistro con il succo dei petali schiacciati. Allo stesso modo, quando era più giovane, si macchiava le guance pallide e si chinava a specchiarsi nella vasca della serra. Ma il suo riflesso era solo un'ombra scura, molto scura e piatta, come la donna del vecchio quadro di soggetto sacro in sala da pranzo, quello che tutti chiamavano il Leonardo. «Le bambine saranno felicissime», disse Caroline. Laura si scosse. Dunque era tutto stabilito. Sarebbe andata a vivere a Londra con Harry, sua moglie Caroline e le loro figlie, Fancy e Marion. Sarebbe diventata un'inquilina della grande casa in Apsley Terrace, dove fino a quel momento era stata solo una cognata in visita dalla campagna. Un qualcosa di speciale nella fisionomia della facciata le avrebbe insegnato a fermarsi con sicurezza davanti al portone, senza nemmeno guardare il numero e il battaglio. Dentro avrebbe distinto senza esitazione ciascuna delle lucide porte marroni e sarebbe rimasta del tutto indifferente alla posizione della cisterna, che l'aveva tanto confusa la notte in cui, sdraiata sotto le coperte, aveva cercato di ricomporre la casa dentro la scatola delle sue mura esterne. Avrebbe fatto passeggiate a Hyde Park, avrebbe visto i bambini sui pony e le signore alla moda sul Rotten Row e sarebbe andata a teatro in carrozza. La vita a Londra era così piena, così eccitante. C'erano i negozi e i cortei, quelli al seguito della famiglia reale, quelli dei disoccupati, e poi la galleria d'oro di Whitelays, lo splendore delle strade di notte. Pensò ai lampioni, così imparziali, così imperturbabili nella loro maestosa prospettiva di luce, e si sentì intimidita sotto quello sguardo altezzoso. Ogni lampione l'avrebbe passata a successivo, lei e la sua ombra, per strade e piazze inesplorate, ma a quel punto le sarebbero state familiari, sulle quali avrebbe camminato obbedendo alle segrete irrevocabili disposizioni del futuro. E allora, proprio come i londinesi, non avrebbe più fatto caso a quei luoghi. Ma a Londra non ci sarebbe stata nessuna serra, nessuna vasca in cui specchiarsi, nessuna stanza dove conservare le mele e nessuna veranda per le piante, calda e profumata di terra, con i mazzi di papaveri appesi al soffitto, i semi di girasoli in una scatola di legno, i bulbi avvolti nei sacchetti di carta spessa, le matasse di spago incatramato e la lavanda messa a seccare su un vassoio da tè. Erano tutte cose che doveva lasciarsi alle spalle, accontentandosi al massimo di godersele da ospite, a meno che anche a James e Sybil non saltasse il ticchio, come a Harry e Caroline, di chiederle di andare a vivere con loro. «Carissima Lowly», disse Sybil, «così Harry e Caroline l'hanno avuta vinta. Non so dirti quanto ci mancherai, ma tu preferirai certo Londra. Ah, Londra, con le sue nebbie pittoresche, tutta quella gente interessante. Ti invidio, davvero. Voglio sperare che non lascerai Lady Place per sempre. Devi venire a trovarci e stare con noi per un po', così anche Titus non dimenticherà sua zia». «Ti mancherò, Titus?» chiese Laura, chinandosi ad appoggiare il viso sul bavaglino ruvido e sulla testa calda e liscia del bambino. Lui le strinse le mani intorno al dito. «Sono sicura che gli mancherà il tuo anello, Lolly», disse Sibyl. «Quando zia Lolly se ne sarà andata, dovrai mordere quel vecchio pezzo di corallo per far spuntare il resto dei dentini. Non è vero, tesorino?» «Glielo regalerò, se pensi che gli mancherà davvero, Sibyl». A Sibyl brillarono gli occhi. Disse invece: «Oh no, Lolly, neanche per sogno, non voglio assolutamente privartene, è un anello di famiglia». Un giorno, Fancy Willows, che si era sposata, aveva perso il marito in guerra, aveva guidato il camion per il governo e si era risposata per ragioni patriottiche, disse a Owen Wolf Saunders, il suo secondo marito. Com'erano prive di iniziativa le donne di una volta? Prendi zia Lolly. Il nonno le aveva lasciato una rendita di 500 sterline l'anno e lei aveva quasi 30 anni quando è morto, eppure non ha trovato niente di meglio da fare che sistemarsi con mamma e papà e restarci. 20 anni fa la posizione di una donna sola era molto diversa, rispose Mr. Wolf Saunders. Sai, il sesso debole che andava tutelato e tutte quelle stupidaggini. Ma già nel 1902 c'erano persone di mentalità aperta che si chiedevano perché quella Miss Willows, piuttosto benestante e con tutta probabilità destinata a non sposarsi, non avesse messo su casa per conto suo, dedicandosi a un'attività artistica o a qualche causa progressista. Eppure nessuno dei parenti di Laura passò mai per la testa un'idea simile. Dopo la morte di suo padre, tutti avevano dato per scontato che venisse assorbita dalla famiglia dell'uno o dell'altro fratello. E Laura, sentendosi un po' come un articolo dell'eredità omesso dal testamento, si era disposta a fare quello che gli altri ritenevano più opportuno. Si trattava di un punto di vista antiquato, ma i Willows erano una famiglia conservatrice, di consuetudini per l'appunto antiquate. Per scelta e non per pregiudizio, rimanevano fedeli al loro passato. La comodità dei letti in cui dormivano e delle poltrone in cui sedevano li induceva impercettibilmente a rispettare il buon senso dei loro progenitori. E poiché con l'invecchiamento il bambino nella botte a data migliora, i Willows ritenevano che lo stesso principio si applicasse alle buone abitudini: la moderazione, il linguaggio garbato, la mente sgombra da cure materiali e un'elegante semplicità erano canoni di comportamento imposti loro dall'esempio degli antenati. L'osservanza di questi canoni non aveva reso particolarmente illustre nessun membro della famiglia. Forse quella che era arrivata più vicina alla fama era stata la proprio zia Salomè. Il fatto che la sua pasta sfoglia fosse stata lodata da Giorgio III era un appropriato motivo di vanto per i Willows e il suo libro di preghiere con gli uffici per Carlo il Martire, la restaurazione della famiglia reale, la prosperità della casa di Hannover, un bel esempio di devozione imparziale, veniva tradizionalmente usato dalla moglie del capofamiglia. Benché fosse sposata a un canonico di Salisbury, Salomè si era tolta i guanti di capretto ricamato e rimboccate le maniche, i pizzi penzolanti sulla ciotola della farina, era andata in cucina a impastare la sfoglia per la tavola di Sua Maestà. E Era un suddito leale, una devota credente, una brava donna di casa, e i Willows erano giustamente fieri di lei. Suo padre, Titus, era tornato da un viaggio nelle Indie con un pappagallo verde, il primo che si fosse mai visto nel Dorset. Si chiamava Ratafì ed era vissuto 15 anni. Quando era morto, lo avevano impagliato e rimesso come da vivo sul suo anello appeso alla credenza. Da lì i suoi occhi di vetro avevano sorvegliato 4 generazioni di Willows. Ai primi dell'Ottocento, Ratafì aveva perso un occhio e qualcuno gliel'aveva rimpiazzato con uno più grande, ma meno luminoso ed espressivo. Questo aveva messo nel suo sguardo che di losco, senza con ciò intaccare la considerazione di cui godeva. Nel suo piccolo il pappagallo era un pezzo di storia della contea e i Willows, riconoscendogli questo merito, gli avevano riservato un posto anche nella propria. Accanto alla credenza, sotto Ratafì, c'era l'arpa di Emma, un'arpa verde alla David, ornata di volute e foglie di acanto dorate. Da piccola Laura sgattaiolava ogni tanto nel soggiorno vuoto a pizzicare le corde rimaste intatte, e quando le rispondevano con voce remota e piena di malinconia, immaginava con un piacevole brivido di paura che il fantasma di Emma fosse tornata a suonare l'arpa con le dita gelide, penetrando silenzioso nella sala vuota come aveva fatto lei. Ma quello era un fantasma gentile. Emma era morta di tisi, e quando ormai giaceva immobile con un mazzo di bucaneve tra le mani giunte, le avevano tagliato una ciocca dei capelli, poi inseriti nel ricamo di un salice che fondeva i suoi rami su una bara imbottita di raso bianco. Quello, diceva la madre di Laura, è un ricordo della proprio zia Emma, che è morta tanto tempo fa. E allora faceva pena quella poveretta che, unica tra i suoi parenti, pareva aver avuto la sventura di morire. Harry era nato nel 1818. Nonno di Laura e nipote di Emma, si era trovato a capo del casato dei Willows a soli 24 anni, dopo che nel giro di 2 settimane il vaiolo si era portato via suo padre e suo fratello maggiore, ancora celibe. Da giovane Harry aveva un comportamento da girovago e non era certo un tradizionalista. Fu quindi una fortuna che, come figlio cadetto, avesse la libertà di fare a modo suo. Ne aveva approfittato per sposare una gallese e stabilirsi nei dintorni di Yeovil, dove suo padre gli aveva comprato una quota di partecipazione in una fabbrica di birra. Una volta capo della famiglia, era logico pensare che Harry avrebbe quantomeno abbandonato il Somerset, se non la moglie gallese e la fabbrica, per tornare nella sua terra natia. E invece non lo fece. Si era affezionato ai luoghi in cui aveva trascorso i primi 5 anni di matrimonio, e poi la battuta sconsiderata di suo zio l'ammiraglio, secondo la quale la gallese da lui corteggiata portava un cappello alto come quello della strega Shipton e andava in chiesa con le scarpe in mano, sotto sotto aveva raffreddato i suoi rapporti con la parentela. Ma ciò che più di tutto lo aveva trattenuto era il fatto che Lady Place, una casa elegante e solidamente costruita che lui teneva d'occhio da tempo, proprio in quei giorni era stata messa in vendita. Harry si era ripromesso, se mai fosse diventato abbastanza ricco, di fare di sua moglie la signora di quella tenuta. E così fu che l'ostinazione dei Willows, dopo aver mantenuto intatta per tanto tempo la casa nel Dorset, trasferì la loro dimora oltre il confine della contea. La vecchia proprietà fu venduta e tutti i mobili e gli oggetti di famiglia vennero sistemati a Lady Place. Parecchie corde dell'arpa di Emma si ruppero, la coda di Ratafì perse qualche piuma e per diverse domeniche Mrs. Willhouse, che aveva ricevuto un'educazione evangelica, fu angustiata dal contenuto del libro di preghiere di Salomè. Ma nel complesso le tradizioni dei Willhouse ressero egregiamente al trasloco. Tavoli, sedie e stipi mantennero la stessa disposizione. I quadri furono appesi nello stesso ordine, anche se su altri muri, e fuori si continuarono a vedere le colline del Dorset, benché le finestre guardassero a sud invece che a nord. Persino la fabbrica di birra, per quanto estranea alle tradizioni, superò la prova e presto entrò indissolubilmente a far parte della vita di famiglia. Harry Willhouse ebbe 3 figli e 4 figlie. Everard, il maggiore dei maschi, sposò una cugina di secondo grado, Miss Frances Durfey, che arricchì la casa nel Somerset di ulteriori beni di famiglia: una parure di granati, Un servizio da tè color oro e cuoio ricevuto in eredità dall'ammiraglio, un appassionato di porcellane che aveva assegnato in dote a tutte le nipoti e le pronipoti pezzi orientali di Worcester e di Minton. E infine due dipinti a olio di pittori italiani che Titus Junior, il fratello di Emma, aveva comprato a Roma durante i viaggi che faceva per ragioni di salute. Da lei, Everard aveva avuto tre figli, Harry nel 1867, James nel 1869 e Laura nel 1874. Il giorno in cui Harry era venuto al mondo, Everard aveva messo in cantina 12 dozzine di bottiglie di porto per quando avrebbe raggiunto la maggiore età. Sebbene Everard fosse orgoglioso della fabbrica di birra e sostenesse che la birra era una bevanda data agli inglesi di ogni classe sociale, da preferirsi ai vini stranieri, porto e sherry si salvavano dal bando. Erano i Bordeaux che disdegnava in modo particolare. Altre 12 dozzine di bottiglie furono aggiunte alla nascita di James e sembrò che tutto finisse lì. Everard era un estimatore della femminilità. Aveva intensamente desiderato una figlia e quando gliene nacque una, l'amò tanto di più proprio perché aveva quasi perso ogni speranza. Tuttavia, la gioia che provò in quell'occasione non fu espressa in modo altrettanto corposo. Per Laura non poteva mettere in cantina bottiglie di porto. Infine trovò la soluzione al suo problema. Andò a Londra con il misterioso e incongruo pretesto di una calvizie incipiente e tornò con un sottile filo di perle, piccole e regolari, proprio della misura giusta per il collo della bimba. Anno dopo anno, spiegò, la collana si poteva allargare, tanto da poter cingere il collo di una giovane donna al suo primo ballo. Il ballo, proseguì, l'avrebbe dato in inverno perché voleva vedere Laura in ermellino. Ma mio caro, gli disse Mrs. Willows, sembrerà un beefeater, poverina. Ma Everard non si dava per vinto. Un ermellino impagliato che aveva visto da ragazzo era rimasto il suo ideale di principessa incantata, così candido e lucente, la testolina armoniosa dalla posa sagace sul collo slanciato. Ma Everard, commentò sua moglie, come puoi preferire le donnole alle donne? Laura scampò al destino comune a tutti i neonati. Non era infatti per nulla paonazza. A Everard sembrò l'incarnazione del suo ermellino. Dal momento in cui posò lo sguardo su di lei, si innamorò della sua femminilità. Oh, la mia splendida signorina! Esclamò quando gliela mostrarono per la prima volta, piagnucolante avvolta in uno scialle, nel vivido sole di una gelida mattina di dicembre. 3 giorni dopo cominciò il disgelo e Mr. Willows uscì a cavallo per una battuta di caccia, ma fu di ritorno dopo aver ucciso la prima preda. Era una volpe, disse. Una volpe così piccola, così carina. Mi ha fatto venire in mente la mia bambina e ho pensato di tornare a vedere se è stata buona. Le ho portato la coda. Laura crebbe quasi come fosse figlia unica. Quando fu un po' più grandicella, i suoi fratelli erano già in collegio e ogni volta che tornava a casa per le vacanze si sentivano dire da Mrs. Willows: Su, giocate con Laura, da bravi. Ha dato da mangiare ai vostri conigli tutti i giorni mentre eravate a scuola. E mi raccomando, state attenti che non cada nello stagno. Harry e James facevano del loro meglio per rispettare l'ordine della madre. Quando Laura si avvicinava troppo alla riva, uno dei due in genere si ricordava di richiamarla. E prima di tornare a casa, Harry, tanto per precauzione, cancellava ogni indizio rivelatore, pulendole le scarpe dalla melma con un ciuffo d'erba. Ma giocare da bravi con una sorellina tanto più piccola era quasi impossibile. Da buoni fratelli, assolsero il dovere di insegnarle l'arte del lancio e della presa. Quando però si trasformavano in cavalieri o in indiani, allora veniva debitamente assegnata una passiva parte da femmina. In questo modo l'onore era salvaguardato. Se poi a un certo punto si scopriva che la principessa prigioniera o la fedele squaw era sgattaiolata nella rimessa in compagnia di Brewer o era andata a trovare Oliver Cromwell, il rospo sotto la coltre rossiccia di foglie di viola vicino alla vecchia melonaia, ciò non influiva molto sul corso della vicenda. Una volta, quando Laura fece la parte di una principessa prigioniera legata al tronco di un albero, accadde che i suoi fratelli, impegnatissimi in una serie di singolar tenzoni al fine di conquistarsi i suoi favori, si dimenticassero di andare a liberarla prima di giurarsi eterna amicizia e partire alla volta della Terra Santa. Il caso volle che al tramonto Mr. Willows, che tornava dalla fabbrica di birra, attraverso una caligine di moscerini serali, entrasse nel frutteto a controllare che i conigli non avessero rosicchiato altri germogli. Lì trovò sua figlia, che in catene di fieno canticchiava pacificamente tra sé la storia di un serpente che non aveva l'impermeabile. Mr. Willows rimase estremamente contrariato quando, dal disinvolto racconto di Lora, capì quello che era successo. Le tolse le scarpe, le frizionò i piedi e poi la portò nel suo studio, dando ordine che le preparassero immediatamente una limonata dolce e ben calda. La prese sulle ginocchia e mentre beveva le raccontò del nuovo furetto. Quando si udirono le grida di guerra di Harry e James, che tornavano a casa, Mr. Willows sistemò Laura sulla sua poltrona di pelle e andò loro incontro. Davanti all'espressione severa del padre, le grida si affievolirono e infine si spensero. Il crepuscolo sembrò scendere su Harry e James come una condanna, mentre Mr. Willows sottolineava il loro ritardo per la cena e faceva loro notare che se lui non l'avesse visto per caso, Laura sarebbe stata ancora legata all'albero di pere. Questo accadde uno dei giorni in cui Mrs. Willows era a letto con il mal di testa. «C'è sempre qualcosa che va storto quando io sono a letto», si lamentava la poverina. Fu ancora in uno di quei giorni che Ever al rinsalotto diede a Laura le ciliegie candite della torta. Poco dopo Laura si sentì male. Il garzone di stalla, in groppa alla cavalla di Everard, fu mandato di gran carriera a chiamare il dottore. Mrs. Willhouse non si era mai veramente rimessa dopo la nascita della bambina e con il passare del tempo, pur senza farlo pesare, era diventata sempre più cagionevole. Raramente si sentiva abbastanza in forze da ricevere. E così Laura crebbe in un ambiente silenzioso e tranquillo. Signore avvolte in mantelli di seta o in pellicce di foca, secondo la stagione, venivano in visita e osservavano sedute accanto al divano. Laura si sta facendo grande. Presto sarà ora di mandarla a scuola, immagino. Mrs. Willhouse le ascoltava con gli occhi socchiusi. Con la testa voltata di lato, in segno di disapprovazione, dava risposte evasive. E quando, chiudendo gli occhi del tutto, era riuscita a persuadere le visitatrici ad andarsene, chiamava la figlia accanto a sé e diceva: «Non ti pare che le tue gonne siano diventate un po' troppo corte, cara?» Allora la tata cuciva una tasca dai vestiti di percale e da quelli di lana e passavano alcuni mesi prima che le signore tornassero all'attacco. Volevano tutte bene a Mrs. Willhouse, ma pensavano che bisognasse incoraggiarla a sentirsi più responsabile, specialmente nei confronti di Laura. Non era giusto che quella ragazzina crescesse così abbandonata a se stessa. La povera, cara Miss Taylor era una persona encomiabile. Non aveva forse interrogato sulle penisole tutti i ragazzi di buona famiglia dei dintorni? Ma naturalmente, 3 ore al giorno con Miss Taylor e le lezioni di ballo di Madame Brevet in autunno non bastavano certo a soddisfare tutte le necessità di Laura. Aveva bisogno della compagnia di ragazze della sua età, altrimenti sarebbe diventata un'eccentrica. Di sicuro un altro accenno fatto al momento giusto avrebbe aperto gli occhi a quella povera donna. Ma per quanto lei accogliesse i loro buoni consigli con l'aria lusinghiera di chi è lì per apprezzarli profondamente, e aggiunse al loro tè una buona dose di panna prelibatissima, le allusioni delle signore vestite di sete di foca cadevano nel vuoto, tant'è vero che quando sua madre morì, Laura era ancora in casa. Durante gli ultimi anni della sua vita, Mrs. Willhouse era diventata sempre più abile nello schivare le responsabilità e la sua morte non fu altro che la suprema, perfetta espressione di questa abilità. Era come se con un piccolo sbadiglio da gatto avesse detto: «Adesso credo che scenderò nella tomba», e fosse uscita dalla stanza con lo scialle bianco che le svolazzava dietro. Laura portò il lutto per la madre indossando abiti che toccavano quasi terra, perché la sarta di famiglia, Miss Buddle, che aveva tanto discernimento, sosteneva che non c'è verso di far sembrare afflitte un paio di gambe. Quelle di Laura, ad esempio, erano snelle e scattanti, amavano arrampicarsi sugli alberi e saltare sui covoni di fieno e non avevano alcuna voglia di ritirarsi dal mondo e diventare le gambe di una giovane donna. Ma quando si fu infilati i vestiti nuovi, con quel loro odore così strano e nello specchio si vide triste e cresciuta, Laura accettò l'inevitabile. Presto o tardi avrebbe dovuto assoggettarsi all'età adulta. Le sembrava appropriato che il cambiamento avvenisse in un'occasione grave invece che in mezzo al convenzionale, ben educato trambusto di un debutto. Termine stravagante che, a quanto poteva vedere, una volta svuotate le bottiglie di champagne e sfilato dalle esili spalle il vaporoso vestito da ballo, significava più che altro una fine. Ma così come stavano le cose, c'era una ricompensa alla perdita della sua libertà. Evera aveva bisogno di consolazione, o per meglio dire, di una donna che lo consolasse. E Laura, spalleggiata da Miss Bardell, riuscì ben presto a persuaderlo che il femminile conforto che lei gli offriva rispondeva ormai ai requisiti da lui richiesti. Essere adulti era facile, non più facile di quel che aveva immaginato. Avere le idee chiare, usare una certa cautela, muoversi con fare pacato e pensare sempre prima di parlare. Le sue mani sembravano già molto più bianche, appoggiate in grembo sulla sottana nera. Non avrebbe mai potuto prendere il posto di una madre. Sarebbe stato impossibile come avere il suo tocco sulla tastiera del pianoforte, perché Mrs. Willhouse era stata a lezione da un ex allievo di Field e aveva il jeu parlé. Poteva però occupare un posto tutto suo. Così Laura si comportò in modo impeccabile. Questo dicevano i conoscenti dei Willhouse parlando di lei in tono di approvazione e fece quel che doveva fare, piangendo solo quando si trovava da sola nella baracca degli attrezzi, dove un paio di vecchi guanti da giardinaggio ridisegnavano per lei la forma delle mani di sua madre. Il comportamento di Laura era stato tanto più fondamentale in quanto i suoi fratelli al momento della morte di Mrs. Willhouse non si trovavano nel Somerset. Harry, che aveva intrapreso la carriera legale, aveva appena chiesto in moglie una certa Caroline Fawcett. Quando tornò a Londra dopo il funerale, suo padre e sua sorella ebbero l'inevitabile impressione di vederlo lasciare l'ombra che avvolgeva Lady Place per andarsi a crogiolare nel privato fulgore di un fidanzamento adeguato. Harry lasciò che il padre e la sorella trovassero consolazione nel consolarsi a vicenda. In effetti era rimasto con loro anche James. Ma benché il suo dolore fosse davvero senza pari, difficilmente avrebbero potuto trovare in lui un appoggio. Dopo avergli spedito un telegramma in Germania, dove si trovava per i suoi studi di chimica, Everard e Laura avevano fatto il conto di quanto tempo avrebbe impiegato per tornare a Lady Place e si erano dati da fare per preparargli l'accoglienza più calorosa possibile. Avevano già cominciato a tessere un più fitto manto di affetto familiare con cui ripararsi dal gelo del lutto. Non appena udirono lo scricchiolio delle ruote sul vialetto e il fruscio dei rododendri bagnati, si scambiarono uno sguardo di rassicurazione, rincuorandosi al pensiero del fuoco che ardeva vivace nella sua stanza e del menù accuratamente scelto che lo aspettava per cena. Ma quando se lo videro davanti, con il viso rosso che si contraeva a scatti, si sentirono imbarazzati dalla solennità di un dolore sopportato in modo tanto diverso da loro. Niente di ciò che erano in grado di offrirgli poteva lenire una simile angoscia. Lo lasciarono ai suoi pensieri e cercarono scampo anche alla sofferenza di James, l'uno nella compagnia dell'altra. In sua presenza se ne stavano seduti in silenzio, come due bravi bambini davanti a un dolore più adulto che non riuscivano a comprendere. Forse James accettava con tacita gratitudine quel loro modo di tenersi in disparte, o forse non lo notava nemmeno. Era impossibile a dirsi. Poco dopo il suo ritorno, fece un gesto così eccezionale negli annali della famiglia da potersi spiegare solo con lo stato di estremo turbamento in cui si trovava. Senza consultare nessuno, cambiò la disposizione dei mobili, trasportando uno specchio e un sofà di velluto verde oliva nella stanza di sua madre alla propria. Opera compiuta, scese lentamente da basso e andò nel cortile delle scuderie, dove Laura e suo padre erano andati a vedere la nuova cucciolata. Con poche parole, come fosse cosa di tutti i giorni, li mise al corrente di ciò che aveva fatto e quando loro cercarono timidamente di rispondere, come se la ritenessero a loro volta una soluzione del tutto naturale e opportuna, lui aggiunse che non aveva intenzione di tornare in Germania e che sarebbe invece rimasto a Lady Place ad aiutare suo padre nella fabbrica di birra. Everard ne fu molto contento. La sua fede nei meriti del far birra era stata bruscamente scossa dalla scelta del suo primogenito, che si era rifiutato di avervi a che fare in alcun modo. Ancora prima di prendere il diploma, le ambizioni di Harry erano già orientate verso la carriera giuridica. Sentendolo parlare a uno dei dibattiti organizzati dalla scuola, uno degli insegnanti gli aveva detto che aveva una vera predisposizione. Quel complimento non gli aveva lasciato dubbi circa la via che desiderava seguire, e non ci volle molto perché anche i suoi genitori sperimentassero quella predisposizione. Everard ci rimase male, e Mrs. Willhouse considerò la cosa con un certo disdegno, poiché nutriva un antiquato pregiudizio contro le professioni liberali e riteneva uno sbaglio scegliere di vivere del proprio ingegno anziché della propria operosità. Ma Harry, da buon Willhouse, aveva una riserva di determinazione pari a quella dei suoi genitori, e la sua era di 25 anni più giovane e vivace della loro. «I tempi sono cambiati», disse Everard. Per i ragazzi di oggi un'azienda di campagna non è più quello che era una volta.